Dovremmo anche noi essere stupiti, entusiasti di questa casa, che Dio ci ha preparato come anticamera di quell'altra casa, atrio, pronao, introduzione, preparatoria, preparazione, prefazione a quell'altra casa che è abitata dalla trascendenza di Dio. Certo, Dio abita anche qua giù, ma questo qua giù è superato, perché Dio lo trascende questo qua giù, lo trascende. Per capire questo concetto altamente filosofico, che può offrire tanti motivi alla contemplazione più sublime, sapete cosa vuol dire trascendere? Ecco, immaginate di trovarvi uno, io, te, di trovarvi sopra il monte più alto della terra, più alto. Dopo di quella cima non ce ne sono altre, quella è la più alta cima. Tu solo, io solo. E sotto di me c'è tutta la terra, i suoi continenti, i suoi oceani, i suoi mari, le sue pianure, le sue foreste, le sue città, i suoi borghi, i suoi paesi, tutto sotto. E tu superi, tu trascendi. Ecco cosa vuol dire trascendere, essere sopra, sopra tutto quello che ti sta sotto. Tu superi, trascendi tutto quello che ti sta sotto, ti sta sotto. Ecco chi è Dio, tutto gli sta sotto e lui sta sopra. Quello che gli sta sotto è suo, sgabello ai suoi piedi. Quello che supera il creato, che trascende, è l'immensità di Dio. Dio abita una luce inaccessibile, Dio abita una trascendenza assoluta, supera tutto. Quando noi pensiamo di essere sopra una vetta la più alta e di avere sotto i piedi tutto, diciamo: io trascendo tutta la terra. E Dio trascende te e tutto l'universo. Riuscissimo a capire qualche cosa di questa trascendenza. Tornando a guardare le cose create, diremmo: tutto questo è niente a confronto di quello che ho capito della trascendenza di Dio. Andiamo da Guglielmo Marconi. Come mai sulla soffitta di casa tua, dove hai tutti i tuoi attrezzi, dove tu hai fatto tanti esperimenti, come mai hai paura? Ma non ti senti grande, il più grande scienziato del nostro secolo? No, per un attimo ha sentito la grandezza del creato, ma ha capito anche la suprema grandezza del Creatore. E guardando il creato, guardando la sua scoperta della radio, ha sentito che tutto era niente a confronto di quel Dio che aveva creato l'universo con tutte le leggi e i fenomeni concernenti la sua scoperta. Si buttò in ginocchio per congratularsi a braccia aperte con il Creatore, e sul letto di morte a questo Creatore si affida e si abbandona. Aveva scoperto con i suoi studi l'orma di Dio, il passaggio di Dio in questa casa, la prima casa che abitiamo, in questo nostro essere corporeo, in questo mondo che ci circonda, ci abbraccia, ci stringe. E dopo questa scoperta, pestando i piedi su questa scoperta, a fronte alta, ha capito che cosa vuol dire Padre nostro che sei nei cieli. La trascendenza. Non troviamo altra parola per esprimerla che cielo. Padre nostro che sei nei cieli. Cioè che superi tutto, che superi tutto. Ma io ricordo quando sono stato ad Atene, poi in Terra Santa, su un aereo a quota 11.000 metri, 11.000 metri, Ed era un bel giorno di sole, un cielo limpidissimo, azzurro intenso, bellissimo. Padre nostro che sei nei cieli, ma guardavo ancora più in su, perché cielo vuol dire trascendenza, la trascendenza di Dio è infinitamente superiore ai cieli dei cieli che possiamo controllare col telescopio, con gli apparecchi, con tutto quello che volete. L'universo è come uno sgabellino sotto i piedi di un gigante.